Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, puntata che da qui fino al 7 gennaio avrà un'edizione natalizia, festiva, ossia terminerà alle 18, tutto il palinsesto della D24 leggermente modificato, e puntata oggi quasi monografica vista la conferenza stampa del Premier Letta, che ha toccato moltissimi temi di carattere economico. E anche con la fiducia sulla legge di stabilità che adesso è in discussione al Senato, mentre ci sono, come già anticipato anche ieri, novità sul decreto cosiddetto Salva Roma, perché i due emendamenti più contestati, adesso ne parleremo, quello sugli affitti d'oro degli edifici della Camera dei Deputati. La Camera dei Deputati spende 22 milioni di euro l'anno per pagare il canone di vari edifici che ospitano uffici, tra cui il centralissimo Palazzo Marini, e anche la norma sulle slot machine sono state stralciate, entrano nel decreto mille proroghe, quindi il governo sostanzialmente si è preso altri giorni di tempo per valutare dopo le polemiche, perché obiettivamente la figura è stata una figura peregrina, ma non del governo, del Parlamento, nel senso che una volta che il Movimento 5 Stelle, va riconosciuto il Movimento 5 Stelle, aveva fatto approvare qualche giorno fa un emendamento che consentiva sia alla Camera che al Senato di recedere dagli affitti d'oro anche in mancanza di una clausola rescissoria, poi una manina invece l'ha fatta rientrare. Di nuovo, a questo punto se ne sono accorti sia la Lega che il Movimento 5 Stelle, si sono accorti che nella legge di stabilità qualcuno aveva piazzato un codice che neutralizzava questa norma antiaffitti. Di nuovo tutto in alto mare, l'esecutivo a questo punto la sposta nel mille proroghe, ma non è una bella cosa, non è una bella immagine vedere che notte tempore qualcuno introduce emendamenti che non si capisce a chi vadano, a vantaggio di chi vadano sostanzialmente, se non di chi possiede questi immobili, perché sicuramente non a vantaggio della Camera e del Senato e sicuramente non a vantaggio dei contribuenti. Tra poco ne parleremo. Molti altri interventi invece del Premier sulla la legge di stabilità, la manovra, il rientro dei capitali dalla Svizzera e quant'altro, e l'IMU, in una manovra che comunque complessivamente ha, perché a questo punto abbiamo anche il perimetro della manovra, vale la legge di stabilità 14,7 miliardi nel 2014, ci sono più tasse per 2 miliardi. Ok, perché dalle tabelle emergono infatti entrate tagliate per 6 miliardi ma aumentate per 8. Le misure sulla casa invece comporterebbero parità di gettito, quindi invariati, con un peso equivalente tra IMU e TASI che vale 3,7 miliardi. Questo lo dico perché abbiamo letto da più parti meno tasse, forse un po' meno tasse sul lavoro, poca roba obiettivamente, ma complessivamente c'è un gettito atteso più alto di 2 miliardi, che a casa mia significa più tasse per 2,1 miliardi di euro. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. La borsa va complessivamente bene, più 0,40% Milano, più 0,20% Parigi, più 0,70% Francoforte, più 0,80% Londra. Molto forte oggi Autogrill, più 5%, il Monte dei Paschi, più 4%, forse c'è un accordo in vista, ne parleremo, tra la Fondazione e i fondi. ST Microelectronics più 3,90, Fiat più 3,40, Iux debuttante più 2,40, Fondiere Assai più 2,14, A2A più 1,90, Atlantia meno 1,20, Salvatore Ferragamo meno 1,15, Mediobanca meno 1%, come la Popolare Emilia Romagna, Ubibanca meno 0,90, come la Pop Milano. Rapidamente le altre notizie in breve. Sì, parleremo anche della debuttante Iux, perché insomma è un debutto importante, visto che vive delle vendite online, per cui è un ingresso, diciamo, quella che una volta si chiamava la dot-com economy anche nel listino principale della borsa. Ma andiamo avanti con le altre notizie, sempre in tema però di dot-com, o meglio di IT. È volata letteralmente in borsa oggi Apple nelle contrattazioni dopo l'accordo con China Mobile per la vendita dell'iPhone in Cina. Ha fatto un più 4% in preapertura. Secondo le stime di Goldman Sachs, l'accordo consentirà ad Apple di vendere tra i 15 e i 20 milioni di iPhone in più all'anno sul mercato cinese, e quindi con un aumento dell'utile per azione stimato intorno al 5%. Volete sapere come va il nostro spread? È sempre lì, sempre a 220, oggi 226 punti. Invece sul fronte dei consumi vale la pena ricordare come oggi sia tornata in calo la fiducia dei consumatori italiani. Pesano i giudizi e le attese sulla situazione familiare. È sceso l'indice della fiducia delle famiglie italiane a 96 punti, che vuol dire il valore più basso da giugno. Ancora giù l'occupazione delle grandi imprese a ottobre, meno 0,9%. Parleremo però dei consumi, anzi parliamone subito, perché c'è un andamento abbastanza contrastante tra come stanno andando i consumi anche natalizi a casa nostra e come invece vanno i consumi del Made in Italy all'estero. Perché lo dico? Perché da un lato abbiamo i Kodakons che denunciano in 6 anni consumi crollati di 7,7 miliardi, cioè gli italiani stanno spendendo per Natale 7 miliardi e 700 milioni di euro in meno rispetto al 2007. Una spesa che si aggirava sui 18 miliardi, adesso spesa per Natale, si aggirerà appena intorno ai 10 miliardi. Il dato è un dato emblematico perché vuol dire un crollo dei consumi natalizi del 42%. E anche la Confesercenti fa notare che ormai gli italiani siano sempre più cauti negli acquisti natalizi. Le famiglie in media hanno tenuto il budget per gli acquisti di Natale sotto i 200 euro. Nemmeno l'arrivo delle tredicesime ha aiutato la ripresa dei consumi. La Confesercenti ha fatto un sondaggio, ha notato un calo delle vendite nelle varie regioni che va dal 10 al 20%, a fronte di un budget che in alcune regioni, penso alle Marche e alla Puglia, scende anche sotto la soglia dei 100 euro. In Lombardia e in Campania invece oscilla sui 150 euro, 200 euro in Liguria, Toscana, Veneto e Lazio. Chiaramente è un effetto delle ristrettezze dovute alla crisi. Per quello che riguarda gli acquisti più gettonati ci sono come sempre i generi alimentari, ma anche l'high tech con tablet, smartphone e vari accessori. E questo è un lato della medaglia. L'altro lato invece, sicuramente più positivo, riguarda il Made in Italy, cioè gli italiani mangiano e comprano sempre meno Made in Italy. Per fortuna, in parte, questo viene compensato dagli stranieri, perché è un vero e proprio record per il Made in Italy alimentare sulle tavole di tutto il mondo. L'export di vini, spumanti, grappa, liquori, panettoni, formaggi, salumi e pasta sotto Natale ha superato i 2 miliardi e 700 milioni di euro sulla base delle proiezioni della Coldiretti. Lo spumante ha fatto più 16% come export, i panettoni più 14%, i vini più 8%, i salumi più 5%, la pasta più 4%, i formaggi più 3%. Fra un po' ci toccherà chiedere agli stranieri com'è il nostro Made in Italy, visti i due dati, noi consumiamo sempre meno e i nostri prodotti li mangiano all'estero. Anche la Confartigianato fa notare come i dolci Made in Italy abbiano avuto un dato eccezionale, record quest'anno, 285 milioni di euro solo di dolci Made in Italy esportati, praticamente più 14% rispetto a Natale del 2012, e sono quasi 35 milioni di euro in più. Le destinazioni dei nostri dolci sono soprattutto la Francia, la Germania e il Regno Unito. Tra l'altro pensate che in Francia il nostro export ha fatto un più 38% rispetto al periodo natalizio dell'anno scorso. In Germania 41 milioni di export, più 30% anche in Gran Bretagna e più 22% negli Stati Uniti. E a proposito di dolci, a me piacerebbe regalare un po' di carbone alla manina. È inutile che mi chiediate al 349-238-6666 chi è stato, non lo sappiamo. C'è un emendamento, non è andato a saperlo in questo momento, però alla manina che ha cambiato la norma sugli affitti d'oro della Camera, da un lato, ma tra l'altro non si capisce per quale motivo, perché ci fosse un'azione di interesse pubblico potrei anche capirlo, ma qua è un contratto, sono contratti soprattutto con un imprenditore, si chiama Scarpellini, affitti multimilionari, tutto in regola, ci mancherebbe, però un'iniziativa del Movimento 5 Stelle aveva permesso, un emendamento chiaramente, di eliminare, o meglio di favorire e permettere alla Camera e anche al Senato di recedere da questi affitti anche in mancanza di una clausola rescissoria. Adesso ci arriviamo agli affitti d'oro, però questo è un paese incredibile, non manca mai la fantasia, il bene meno raro che c'è in Italia. Perché lo dico? Perché la regione Liguria è riuscita a quantificare un qualcosa che è a cavallo tra filosofia e psicanalisi, ossia quale sia il danno subito da chi deve comunicare ai propri colleghi novità sgradite, oppure dire un no. Chi ha un ruolo di responsabilità spesso si trova a dover dire no, o a dire mi dispiace, le cose non vanno come tu vorresti. Ebbene, questo elemento di frustrazione e anche di usura mentale, personale, psicologica, la Regione Liguria l'ha quantificato. E come ha fatto? Ha creato un'indennità di emotività individuale e impegnative relazioni interpersonali. Io vi giuro, qui siamo a cavallo tra Freud, Jung, Durkheim, Marx, non lo so, perché l'emotività individuale e le impegnative relazioni interpersonali, chissà se vale anche nel mondo del privato, cioè tra uomo e donna, tra uomo e uomo, tra donna e donna, comunicare a un collega una cosa sgradevole vale come indennità 13,02 euro al giorno, il che alla fine dell'anno fanno una tredicesima in più. Peccato che questa indennità per chi ha uno stress emotivo di dare brutte notizie, mi piacerebbe sapere se c'è anche una graduatoria di queste brutte notizie, cioè se si va dalla morte del gatto in su, oppure anche sulla base dei rapporti con il collega. Questa indennità non è piaciuta molto alla Corte dei Conti, che lo ha scritto nero su bianco, anzi il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha trasmesso questa cosa alla Corte dei Conti. E i magistrati della Corte dei Conti hanno subito aperto un fascicolo che ipotizza un danno erariale ancora da quantificare. Ma io dico, ma la Regione Liguria, che ha già tanti di quei casini, sì, è più Groucho Marx forse che Karl Marx, avete ragione cari ascoltatori, dico, ma la Liguria, che assieme a altre regioni è travolta da scandali e inchieste, ma non avete altro da fare che quantificare l'emotività individuale nelle impegnative relazioni interpersonali dei vostri dipendenti? No, chiedo. Però subito c'è la precisazione, perché è intervenuto l'assessore al personale Matteo Rossi, che ha detto: attenzione, la Regione Liguria non ha mai corrisposto ai propri dipendenti un'indennità emotiva, e qui il giallo si infittisce. Ci sarà o non ci sarà questa indennità emotiva? Tutta una spiegazione sull'indennità emotiva che avrebbe riguardato un massimo di 25 dipendenti impegnati in relazioni interpersonali, procedure complesse, ma non vi rendete conto che fa ridere anche solo spiegarla sta cosa? No? Ma dov'è l'indennità emotiva nel privato? C'è qualche collega la chiederebbe anche perché lavora con me, vedo le facce di là dal vetro, lo so, è inutile che mi guardiate così, tanto indennità emotiva non c'è, vi beccate. Oh mamma mia, andiamo avanti invece con la battaglia sugli affitti d'oro. Adesso io chiedo una cosa, ma come cavolo si fa? Già avete fatto una bella figura a pagare 22 milioni di euro solo per gli affitti e i canoni della Camera dei Deputati in altri edifici perché lo spazio non basta. Il Movimento 5 Stelle se ne accorge, introduce questo emendamento. Perfetto, no, notte tempore. C'è una manina che elimina questa norma e permette di nuovo alla Camera di versare i suoi affitti d'oro. Se ne accorgono i 5 Stelle e quindi tra venerdì e sabato viene reintrodotto l'emendamento che permette di invece chiudere il pagamento di questi affitti d'oro. Non basta, perché la stessa manina, gelida o non gelida, chi lo sa, la gelida manina ritorna e lo ricambia. A questo punto se ne accorgono di nuovo la Lega e il Movimento 5 Stelle. Caos totale, il governo obbligato per sta cavolata a stralciare la posizione dal decreto Salva Roma, perché Salva Roma salva palazzi romani, lo mette nel mille proroghe, vale anche per le slot machine. E intanto si va a votare la fiducia. Complimenti, complimenti. Comunque, siamo verso Natale, non facciamoci il sangue amaro, già tutto il resto dell'anno mi tocca raccontare queste cose. È la manina del lobbista, vabbè, la manina del lobbista, capito? Tagliamola sta manina del lobbista, no? La mano morta del lobbista, che tanto morta non mi sembra, mi sembra una mano bella viva. Comunque, tutto bene, il peggio alle spalle, l'Italia ce la farà, lo dice il premier Enrico Letta. È un anno in cui la fatica sociale, soprattutto in quest'ultima parte, è stata evidente ed è evidente a tutti. Ed è una fatica sociale che è sicuramente il cuore della vicenda che abbiamo davanti. Una fatica alla quale dobbiamo dare risposte, alla quale stiamo dando risposte, nelle domande, nelle risposte sono convinto che si tornerà su questo punto. Io sono fermamente convinto che l'Italia ce la farà e che l'Italia ce la farà perché oggi ci troviamo nelle condizioni di avere dietro le spalle la parte più complessa di questa crisi e di essere in condizione di cogliere davanti a noi opportunità importanti. Le tensioni politiche sembrano essere al massimo, ma sono convinto che l'anno prossimo sarà l'anno nel quale le nostre istituzioni si riformeranno in modo completo e compiuto. E alla conferenza stampa di fine anno 2014 sono convinto che commenteremo dati economici diversi e migliori e commenteremo riforme istituzionali che a quel punto saranno un fatto compiuto, a partire ovviamente dalla legge elettorale. Così il premier Letta. Nel frattempo qualcuno di voi ci scrive che servirebbe l'indennità anche per chi le riceve le brutte notizie, oltre che per chi le dà. Ma certo, come no? E per i parenti fino al secondo grado, vogliamo dimenticarceli? Giusto. Allora, il nostro Vincenzo Miglietta oggi, in questi casi, quando il premier fa la conferenza stampa prenatalizia, vengono estratte a sorte le testate, radio, TV e giornali, che possono fare la domanda per prima. È toccata Radio 24 quest'anno, eravamo i primi a poter fare la domanda al premier Letta, l'ha fatta il nostro Vincenzo Miglietta e giustamente, a mio avviso, ha chiesto con chiarimenti e anche qualche spiegazione sulle risorse per ridurre le tasse sul lavoro. Io non voglio continuare con una polemica che vede in prima linea questo gruppo, il giornale con il fondo del direttore Roberto Napoletano della settimana scorsa, le posizioni che abbiamo preso noi, però è inutile dire abbiamo fatto il fondo per tagliare le tasse sul lavoro se poi questo fondo lo svuoti di ogni risorse, perché ci metti dentro anche le risorse per deve servire anche per i pensionati, per le missioni italiane all'estero, per la cassa integrazione in deroga, per gli autonomi, e deve utilizzare teoricamente l'extra gettito, quello non atteso, dalla lotta all'evasione fiscale e dalla spending review del Cottarelli. Auguri. Allora, Miglietta ha chiesto al premier Letta, ci può confermare che questo fondo avrà almeno 2, 3, 5 euro per ridurre la tassazione sul lavoro? L'avevo detto quando a novembre abbiamo discusso con le parti sociali, quando è nata questa idea del fondo che fosse da inserire in legge di stabilità un meccanismo di automatismo per finalizzare alla riduzione delle tasse sul lavoro i proventi che arrivano dalla spending review, i proventi che arrivano dalla lotta contro i capitali illegalmente esportati. La riconfermo qui, questa volontà e questo impegno, sarà così. C'è stata discussione e equivoci attorno alla interpretazione della norma per come molti l'hanno voluta leggere, ma la norma la si deve leggere così. Questo sarà l'impegno che ci prendiamo. Questi interventi porteranno risorse che serviranno per ridurre le tasse sul lavoro. E le tasse sul lavoro vuol dire ovviamente le due componenti principali delle tasse sul lavoro: il costo del peso fiscale sul lavoratore e il costo del peso fiscale su chi dà e genera lavoro. Staremo a vedere, massima fiducia nel premier Enrico Letta. A noi sembra che, e l'abbiamo scritto e detto, che il fondo sia svuotato delle risorse. Se però queste risorse vi saranno, ci saranno e comporteranno un'effettiva riduzione della tassazione sul lavoro, cioè di quanto becchi tu in busta paga rispetto a quanto costi al tuo datore di lavoro, saremo i primi a ricordarlo. Poi arriviamo anche ai temi europei. Vedo che qualcuno sta lanciando in rete alcune delle frasi cult ascoltate a Focus Economia nel 2013. Non so chi l'abbia indetto sto concorso, io no. E sta vincendo la legge, l'IMU è retroattiva, cioè attiva dal retro, dai ragazzi, per favore. Su, che siamo anche sotto Natale. Non me la ricordo molto bene comunque quella puntata sulla legge, sull'IMU retroattiva, ossia attiva da retro. Vabbè. Il governo non vuole lasciare nessuno per strada, non sfasciamo le pensioni, però Letta ammette che in 5 anni di crisi, di doppia crisi, perché noi ci siamo beccati la doppia crisi, il disagio sociale ha raggiunto punti molto duri, bisogna occuparsi delle persone distrutte dalla crisi. Io so per certo che ci sono le condizioni per cogliere le opportunità davanti a noi, ma so anche che 5 anni di crisi sono durissimi, sono stati durissimi e hanno creato un disagio sociale, una fatica nel Paese terribile. Famiglie che stanno avvicinandosi alla soglia della povertà, posti di lavoro che si perdono, imprese che hanno chiuso, persone che hanno perso il posto di lavoro. Ecco perché accanto alle opportunità per far ripartire il Paese, già in questi 8 mesi, ma nell'anno prossimo ancora di più, dovremo occuparci di chi la crisi ha distrutto. E la crisi ha distrutto con quello che è accaduto negli ultimi anni. Oggi le cose vanno meglio, ma le persone vivono le conseguenze di quello che è accaduto 2 anni fa, 3 anni fa. La persona che oggi perde il posto di lavoro, perde il posto di lavoro perché la sua impresa è andata male in quegli anni, in questi anni, a seguito delle vicende accadute 2, 3 anni fa. Beh, mica tanto, ci permettiamo di far notare al premier Letta che questa Europa, questo euro, ha portato l'area della moneta unica a una seconda recessione, a una seconda crisi che altri paesi, vedi gli Stati Uniti ma non solo, non hanno avuto, ma anche la Gran Bretagna. Per cui in realtà chi perde il lavoro adesso lo perde non per quello che è successo 2, 3 anni fa, perché c'era stato un leggero recupero nel 2011, ma lo perde per quello che è successo tra il 2012 e il 2013, manovre di lacrime e sangue da un lato, attacco al debito italiano dall'altro, crollo dei consumi interni anche come conseguenza di tagli molto forti e di una pressione fiscale che è aumentata, e questo fa sì che se non hai i consumi interni le imprese italiane non possono vivere di solo export, anche se serve a riequilibrare parzialmente chi ce l'ha l'export, no? Ma non è che tutti possono né vivere di export né basta riequilibrare il crollo della domanda interna. Comunque Letta fa notare, giustamente a mio avviso in questo caso, che la stabilità ha anche un dividendo, cioè porta anche degli utili, con uno spread più basso, e lo ha quantificato in circa 5 miliardi di euro. Confermo che la strada è questa, e confermo anche, senza sfasciare i conti pubblici, perché la stabilità, sulla quale io sono spesso e volentieri oggetto di critiche, ha i suoi dividendi, se però la stabilità effettivamente c'è, esiste, e se la si porta avanti nel tempo. Vi faccio soltanto un esempio. La stabilità di questi 8 mesi ha portato un dividendo, che non è un dividendo fatto di ragionamenti astratti, è fatto di cifre, di numeri. Il peso in miliardi di euro degli interessi sul debito, io voglio leggere le cifre degli ultimi anni, cos'è stato e cos'è in questo 2013 con gli interventi che sono stati fatti per rendere il nostro paese più stabile. Nel 2009 gli interessi sul debito sono costati 70 miliardi di euro, nel 2010 71 miliardi di euro, nel 2011 78 miliardi di euro, nel 2012 86 miliardi di euro. E nelle previsioni fatte nel 2012 sul 2013, quella cifra doveva essere 89 miliardi di euro. Oggi, ovviamente non abbiamo ancora il consultivo, però questa cifra, 2013, con la stabilità guadagnata, diventa 83 miliardi di euro. Il dividendo della stabilità vuol dire circa 5 miliardi e mezzo di euro. Oh, in questo caso, dicevo, il Premier ha assolutamente ragione, e questo va ricordato anche a chi ogni tanto racconta, per motivi più o meno politici, elettorali, che lo spread non conta, che è tutta una polemica di carattere di attacco all'Italia, o di polemica, diciamo, politica. No, lo spread conta, perché più interessi paghi sul debito, meno risorse hai. C'è un piccolo problema: questi 5 miliardi, e ha ragione Letta a ricordare che sono 5 miliardi in meno di interessi che noi paghiamo sul nostro debito record, però noi non li abbiamo visti, no? Allora, certo, uno può rispondere: avrei dovuto fare una manovra da 5 miliardi in più. Però è sempre molto aleatorio, no? Tu hai un risparmio, ma noi non lo vediamo, un po' come le accise sulla benzina: quando vanno a record il governo intasca di più, lo Stato intasca di più, ma noi non vediamo questo beneficio in riduzioni, per esempio, di accise, o riduzione anche della pressione fiscale tout court. Sì, c'è qualche assente, c'è qualche convitato di pietra. Io non ho colto, forse per colpa mia, qualche passaggio di Letta duro e incisivo sulla burocrazia che ostacola le imprese italiane più di altre imprese francesi, spagnole, inglesi, tedesche, su una burocrazia che diventa poi satrapismo dei direttori di dipartimento dei vari ministeri, e non solo dei ministeri, anche delle regioni, delle province, dei comuni, con grosso potere di interdizione, quindi grossa anche, diciamo, potere di corruzione, possiamo dirlo questo. Non ho letto molto sulla pubblica amministrazione, su come si penserà di risparmiare. Ho visto, poi le ascolteremo, alcune dichiarazioni su un fisco più amico ma nemico del riciclaggio, e poi alcune dichiarazioni anche sulla Germania e sulla legislatura di crescita, di cui parleremo dopo il meteo e la pubblicità. No, vabbè, non posso leggere i commenti sulla conferenza stampa. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa seconda parte di Focus Economia, che oggi termina alle 18, lo farà fino al 7 di gennaio. No, sorridevo perché i commenti in alcuni casi sono anche spiritosi, però vediamo cosa ha detto Enrico Letta invece sulla legislatura e anche sui rapporti con Angela Merkel, perché il Premier ha detto, insomma, il tema principale del 2014 sarà quello dell'Europa, e del terzo governo tedesco guidato da Angela Merkel, che sarà alleato e non freno per superare una legislatura della sola austerità. Noi ce lo auguriamo, sarebbe un regalo di Natale bellissimo, un'area euro che capisce che solo di austerità passi dal rigore al rigor mortis. Però sognare non costa nulla, si diceva una volta. Sentiamo Letta. Se non chiuderemo questa lunga legislatura della sola austerità iniziata nel 2009, tutte le cose di cui abbiamo parlato fino adesso saranno tutte o più difficili o impossibili da realizzare. Noi abbiamo bisogno di una Unione Europea che entri nella legislatura della crescita, con le elezioni del Parlamento Europeo e con il semestre di presidenza che comincerà il 1 luglio. Su questo lavoreremo con il massimo di impegno. Io sono convinto che in Germania il nuovo governo tedesco sia in condizione di essere alleato di questa strategia e non di essere freno e non di essere contro, perché ho ascoltato con le mie orecchie nella discussione dell'altra notte la cancelliera Merkel dire: noi non vogliamo un'Europa fatta solo della Germania e tutto il resto che va male, perché questo comporterebbe la fine anche della Germania. E questa affermazione, che è assolutamente vera e di buon senso, sono convinto che sarà dietro alle politiche anche del nuovo governo tedesco in questi mesi, in questi anni, perché abbiamo bisogno di un'Europa che sia l'Europa in cui tutta Europa va bene, tutta Europa è competitiva e non solamente un paese, perché se no viene giù anche quel paese, perché ormai siamo tutti legati gli uni agli altri. Io sono fermamente convinto che questa legislatura della crescita può cominciare e l'impegno italiano sarà totale. Oh, tutto vero, non ho capito perché se ne accorga adesso Angela Merkel. Cioè, è 3 anni che diciamo che se tu fai manovre, e poi tra l'altro nel 2015 parte il fiscal compact, cioè l'Italia deve tagliare il debito di 48 miliardi di euro all'anno per 20 anni. No, lo dico perché sognare non costa nulla, invece è molto caro poi aprire gli occhi e vedere la realtà. Perché il fatto che se si ferma il resto d'Europa si ferma anche la Germania, lo ripetiamo da 3 anni. Allora speriamo che vi sia stato un ravvedimento operoso da parte di Angela Merkel, che forse le cifre che arrivano in Germania con il crollo dei consumi italiani, ma anche spagnoli e francesi, abbiano messo in allarme i tedeschi. Perché non è una cosa nuova, non è una decisione, diciamo, presa negli ultimi mesi. È 3 anni che andiamo avanti con il rigore, l'austerità, il rientro dal deficit sotto il 3%, mentre l'America se ne frega bellamente, continua a crescere e il deficit americano sta calando, è vicino a essere sotto il 5%, ma non con fretta, perché in America la prima cosa è creare occupazione, non avere il deficit sotto il numerino del 3%, no, lo dico. Per cui siamo tutti con Enrico Letta, con il suo ottimismo della volontà. Ci resta però, come il carbone ai bambini cattivi, il pessimismo della ragione, perché non abbiamo mai visto, al di là delle dichiarazioni di intenti, una Germania cambiare atteggiamento. Non ho capito quali siano le proposte allo studio per il 2014 per rendere più facili gli investimenti nell'area euro, investimenti infrastrutturali o digitali, da scorporare dal calcolo del deficit, e cioè creare un deficit buono e un deficit cattivo. Mi sembra che sugli eurobond, cioè su obbligazioni di carattere europeo, il no tedesco sia fortissimo, che anche sull'unione bancaria il catenaccio tedesco abbia tenuto fino all'ultimo. Infatti si è arrivati a un compromesso, ci metteremo 10 anni ad avere il salvataggio europeo delle banche. Per cui io vorrei essere come Letta, vorrei essere ottimista come lui, anche perché anch'io ho 40 anni, e domani vi dico già che il titolo della maggior parte dei giornali sarà fatto dalla frase che adesso vi facciamo ascoltare: la generazione dei quarantenni, adesso siamo messi alla prova, non possiamo fallire, la leadership è dei quarantenni. L'Italia di un colpo dal 24 aprile ha recuperato 30 anni nel calendario, il 2013 è l'anno che verrà ricordato come una svolta generazionale senza precedenti nella storia repubblicana. Immagino che si riferisca a se medesimo e poi a, chiaramente, Renzi e anche Alfano, Grillo non lo so, mi sembra che ne abbia di più, però insomma il movimento suo è giovane e ai quarantenni. Quindi Letta sulla svolta generazionale. L'Italia di un colpo dal 24 di aprile, ha recuperato 30 anni nel calendario. Il 2013 è l'anno che sarà ricordato come l'anno della svolta generazionale di un paese che sempre è stato raccontato al mondo come un paese non in grado di produrre una leadership e delle leadership come capita nel resto del mondo di quarantenni. Il nostro paese quest'anno ha compiuto una svolta generazionale senza precedenti nella storia repubblicana italiana. Questa svolta generazionale è una svolta generazionale che oggi mette alla prova una nuova generazione. L'abbiamo chiesta, l'abbiamo richiesta, l'abbiamo auspicata per molti anni, questa svolta generazionale. Oggi questa è arrivata per il coraggio di molti, in primis per il coraggio del Presidente della Repubblica, che il 24 di aprile ha deciso di fare una scelta di svolta in questo senso. Oggi questa generazione è messa alla prova e questa generazione non può fallire. Se questa generazione fallisse, vorrebbe dire che tutti gli auspici di questi anni non sono andati nella giusta direzione. Non abbiamo oggi come generazione la possibilità di fallire e non abbiamo come generazione alibi. I have a dream that one day on the red hills of Troy, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. E allora, Premier Enrico Letta, visto che lei ha detto che questa generazione dei quarantenni non può fallire, non se lo può permettere, non ha alibi, iniziamo anche a dimostrare che siamo diversi, che usciamo dalle vecchie logiche della politica, degli annunci, delle promesse? Allora, facciamo un'operazione di trasparenza, questo è il sogno che abbiamo noi alla vigilia di Natale, siamo in diretta anche domani, ci mancherebbe. Facciamo un'operazione di trasparenza, smettiamola di dire che l'anno prossimo ci sarà la crescita, diciamo che siamo usciti dalla recessione, lo 0,7% non è crescita, Presidente del Consiglio, è stagnazione economica. Ricordiamo che i disoccupati aumenteranno, diciamo la verità agli italiani, allora vogliamo segnare il passo, smettiamola con la vecchio modo di fare politica anche nel linguaggio, anche nella semantica, il paese non ne può più di sentire promesse e poi vedere la realtà dei fatti diversa, piuttosto facciamo un'operazione di verità e poi ci spieghi cosa vuol fare del fiscal compact, come ha intenzione di mettere paura Angela Merkel, quanto è disposto a battere i piedi perché il 2014 non sia la fotocopia leggermente più sbiadita, meno nera, ma leggermente meno nera del 2013, perché poi i messaggi che noi riceviamo sono un po' diversi da quelli che riceve lei e sono di ascoltatori che stanno perdendo non la speranza, la fiducia, stanno perdendo l'idea che vi possa essere una sincerità in questi messaggi, perché 3 anni che diciamo che arriverà la ripresa, 3 anni che diciamo che l'anno prossimo andrà meglio. Allora facciamo un'operazione di trasparenza totale, è finita la caduta, ci stiamo risollevando molto lentamente, bisognerà stringere i denti anche l'anno prossimo. E invece no, di nuovo, l'anno prossimo sarà l'anno della crescita. Allora, o l'OCSE, il Fondo Monetario, si sbagliano, la Commissione Europea, che prevedono un'Italia tra lo 0,4 e lo 0,7, o se no forse non ci intendiamo più con i termini crescita. Allora, la generazione dei quarantenni deve dimostrare di essere seria, non di essere figlia dei cinepanettoni, perché se no stiamo parlando di un altro film. Non ho dubbi, il 2014 sarà l'anno in cui, a partire dalla delega fiscale approvata e dall'attuazione dei provvedimenti, sono convinto che sarà un anno importante per un fisco diverso da come l'abbiamo conosciuto fino ad oggi, di cui purtroppo anche quest'anno alcuni aspetti negativi si sono visti e questo purtroppo è uno dei passaggi complicati e difficili. A questo aggiungo che gennaio sarà anche il mese dell'intervento sul tema dei capitali illegalmente esportati e quindi del rientro, sarà anche il tema di, accanto a questo, di interventi importanti contro l'autoriciclaggio e sarà un passaggio importante, tutto questo sarà anche dentro e collegato al pacchetto di interventi che faremo contro l'illegalità, contro la criminalità in particolare sulle questioni di natura finanziaria, che rappresenta sicuramente uno degli impegni forti che vogliamo tenere. Però insomma, il 2014, spero, tolta di mezzo la discussione che abbiamo avuto quest'anno e che è stata oggettivamente complessa, ma perché era complessa affrontarla dentro una situazione di conti pubblici come quella che abbiamo vissuto, però l'anno prossimo sono convinto che sarà l'anno anche su questo tema in cui saranno riforme importanti, utili, che io spero renderanno il fisco più amico dei cittadini. Sperem, cosa dobbiamo dire? Un fisco più amico dei cittadini? Però per ora siamo ai bigliettini sotto l'albero di Natale. Comunque, grazie a tutti i messaggi che non posso leggere, però, anche perché alcuni sono un po' duri, però insomma, vediamo, diamogli ancora una possibilità. Ha detto che un quarantenne, dobbiamo mostrare un diverso passo, andiamo avanti, vediamo quale sarà il diverso passo. Andrea Fontana, Radio Colli Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. In chiusura di questa puntata quasi prenatalizia, più 0,70% Milano, bene anche Wall Street dopo i dati, più 0,50%, mezzo punto lo guadagna Parigi, lo 0,90% anche Francoforte, l'1% Londra. Autogrill più 5,20%. E poi Fiat più 4,40, Monte dei Paschi più 4,30. Allora, partiamo da Monte dei Paschi, che è salito anche dopo le smentite. La compagnia San Paolo ha detto infatti che non intende intervenire sul Monte dei Paschi di Siena. Insomma, c'è un movimento nelle fondazioni bancarie per correre in aiuto al Monte dei Paschi di Siena. Anche la fondazione Cariplo, da quello che ci risulta, è interessata alla cosa, o comunque insomma in tutto il mondo delle fondazioni. Però San Paolo ha smentito. Lo ha fatto lo stesso comitato di gestione della Fondazione San Paolo, eppure il titolo va molto bene. Sì, il titolo va molto bene, e oggi non ha chiuso sui massimi, ha chiuso sotto i massimi, un po' ripiegato nel pomeriggio, però l'attesa per quello che sarà la sorte della quota della fondazione, che ha oltre il 30% del Monte dei Paschi, e l'attesa soprattutto dell'assemblea degli azionisti di venerdì, che dovrà votare sull'aumento di capitale, hanno acceso gli acquisti sul Monte dei Paschi, come tu dicevi, forte speculazione sul fatto di un intervento di fondazioni come la Compagnia San Paolo, Fondazione Cariplo o altre fondazioni, insieme a degli investitori istituzionali, a rilevare la gran parte della quota dell'ente senese, della Fondazione Monte dei Paschi. Sono arrivate delle smentite, cioè nonostante il titolo ha continuato a correre, è stato sicuramente il migliore dei bancari, e dopo Autogrill e Fiat è stato il migliore del Fuzionismo. Allora, Autogrill, motivi particolari sul più 5,20% e commentiamo anche Fiat però. Ma per quanto riguarda l'Autogrill non c'è un motivo particolare, ma c'è un forte ritorno sul titolo ai massimi, diciamo, dall'inizio dicembre. È un titolo che sta scontando ancora quelle vendite del 9% fatte dalla famiglia Benetton a fine ottobre, e ci ha messo un po' a recuperare quota 6 euro. Per quanto riguarda Fiat invece, diciamo che l'attenzione è stata catalizzata dal titolo per le nuove indiscrezioni sulle trattative tra Fiat e Weber sull'acquisto delle quote di minoranza, tipo il 41% di Chrysler che Fiat punta ad acquisire, ma che è ancora oggetto di trattativa. La distanza è ancora significativa tra la domanda e l'offerta, ma il ritorno delle trattative fa pensare a alcune case di investimento che l'accordo non sia poi così lontano, ed ecco perché il titolo oggi ha guadagnato quasi il 5%. Pirelli, come hai reagito? Oggi ha formalizzato la vendita della quota generale del fondo americano, che ha quasi 4%, no? Sì, oggi è una buona Pirelli, è un periodo in cui Pirelli sta correndo molto, il titolo è ampiamente sopra quota 12 euro, è arrivata nel fine settimana l'indiscrezione proprio riportata dal Sole 24 Ore della vendita della quota delle generali, uno degli azionisti storici che ha messo in vendita il suo 4,4%, l'ha rilevata insomma intorno al 4% il fondo americano Arbor International. È chiaro che è un titolo su cui da una forte molta attenzione, da una parte perché ci sono molti investitori come i generali sono potenzialmente venditori, sono praticamente venditori dopo la fine del patto di sindacato all'inizio di novembre. Dall'altro canto c'è l'attenzione per quello che sarà il nuovo azionariato, il nuovo riassetto di Pirelli, che nei prossimi mesi o nei prossimi anni si andrà a definire più come public company, per cui molti investitori stanno tornando su questo titolo nonostante il livello di prezzo sia molto alto. Sì, bene, anche altri titoli. Beh, vogliamo commentare Jux, la debuttante nell'S&P MIB più 2,44%, un debutto importante perché è proprio attiva nelle vendite online, quindi neweconomy.com, chiamatela come volete. Sì, certamente per Jux un ingresso importante nel FTSE MIB tra i 40 titoli a maggiore capitalizzazione di Piazza Affari, è un titolo che mette insieme quelle qualità del lusso insieme alle qualità appunto delle new economy come tu accennavi, fanno vendite online di abbigliamento di griff molto, molto note, è un titolo che si è meritato l'ingresso nel FTSE MIB con una forte ascesa nel corso del 2013 e adesso viaggia ai massimi storici sopra quasi a 4,32 euro per azione. Ancora bene, altri titoli, per esempio cito Fondera Sai più 2,30, 2A più 2%, G-Tech più 1,60, negativo invece Ferragamo dell'1%, Popolare Emilia Romagna meno 0,90, Pop Milano meno 0,80% come Mediobanca. Grazie a Andrea Fontana, Radio Corriere sulle 24 ore. Migliori e peggiori in assoluto al volo, PAC IT Way più 9,80, il peggiore SEAT pagine gialle meno 15%. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi e ci faremo anche gli auguri di Natale, ma saremo poi in diretta chiaramente lungo tutto il periodo fino al 7 gennaio per un'ora.